Miriam, una donna che non seppe controllare la propria autorità. Miriam era sempre stata una bambina intelligente e per questo la madre le aveva affidato un compito di grande importanza. La vita del suo fratellino dipendeva dalle sue capacità. Miriam portò a termine il compito con coraggio e sensibilità, mettendo la madre, una semplice donna ebrea, al contatto con una principessa egiziana. Grazie a lei suo fratello fu salvato e questo portò beneficio sia alla sua famiglia, sia al popolo di Dio. Il bambino era Mosè, mediatore del vecchio patto. Il profeta che parlò faccia a faccia con Jahashakaveh Miri. Da adulta Miriam divenne una donna notevole. Il suo carattere era stato formato in una famiglia dove la fede era una realtà giornaliera. I suoi genitori ebbero il coraggio, l'amore e l'ingenuità di trasgredire i comandamenti del re tiranno in modo da poter salvare la vita al loro figlio minore. La famiglia di Amram e Jochebed è stata davvero singolare in tutta la storia di Israele. Dalla loro unione sono nate tre grandi figure, Mosè, Aaron e Miriam. Tre personaggi che servirono il loro popolo contemporaneamente. Io ti ho portato nella terra di Egitto e ti ho liberato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Miriam. Così l'Eterno Dio aveva dichiarato per bocca del profeta Michea. Quando Mosè condusse il popolo angustiato dall'Egitto in terra di Canaan, fu assistito dal fratello Aronne e dalla sorella Miriam, che era una profetessa. Lei non era solo una sorella. Era una collaboratrice dal ruolo di grande autorità. Forse Miriam era nubile, era stata chiamata da Dio per un compito eccezionale. Aveva il privilegio di essere la prima donna profeta, una che parlava da parte di Dio. A fatti e a parole dichiarava la grandezza di Dio. La sua vita era totalmente centrata sull'amore per Dio e per il suo popolo. I suoi doni e i suoi interessi erano troppo grandi perché ne beneficiasse il solo cerchio familiare. La nazione di Israele aveva molte mogli e madri, ma una sola Miriam. Dio le diede una posizione di preminenza. L'intera nazione dipendeva da lei, e questa donna eccezionale ebbe grandi soddisfazioni nella vita, proprio perché si dedicò completamente al suo compito. Aveva circa 100 anni, quando il grande miracolo del Mar Rosso sbalordì il popolo. Le stesse onde, che raccogliendosi portarono alla salvezza il popolo di Dio, quando furono rilasciate causarono la caduta dei loro nemici. «Io canterò all'Eterno perché Egli ha riportato un grande trionfo», gridò Mosè dopo il miracolo. «Egli ha fatto annegare il cavallo e il cavaliere nel mare». Allora tutti gli uomini e le donne avevano iniziato a cantare di gioia. Da quel giorno Israele avrebbe per sempre cantato vittorie eccezionali. Grazie a Miriam. Lei era all'avanguardia, energica e giovanile, di spirito, nonostante l'età che superava i 90 anni. Con il cembalo in mano continuò l'inno iniziato da Mosè e incoraggiò le donne a cantare in onore di Dio, mentre tutti gridavano di gioia. Adimish! Cantate all'Eterno, perché Egli ha riportato un grande trionfo. Miriam era un capo nato. Le donne la seguivano prontamente. Nonostante non potessero prevedere il futuro, il loro cantare sarebbe diventato una inesauribile risorsa di incoraggiamento durante le peregrinazioni nel deserto. Uno cammina meglio, mentre canta ci è meno preoccupazione. In nessun modo lei poteva essere cosciente di quanto spesso sarebbe stato necessario incoraggiare l'uno o l'altro con la fedeltà di Dio. Il viaggio era lungo, a causa della disubbidienza del popolo. Ma tutti guadagnavano nuovo coraggio quando cantavano. I cavalli e i cavalieri sono affondati, annegati nel mare. Tuttavia, la sua preminenza risultò fatale per Miriam. Era una donna forte, comandare le era facile. E, come spesso succede, questa forza diventò una debolezza. È stato detto che ci sono delle circostanze che rivelano la persona interiore, e a svelare il carattere interiore di Miriam fu il matrimonio di Mosè. Egli aveva sposato una donna originaria dell'Etiopia. Miriam non riusciva ad accettare questo fatto. Era strano che Mosè, un uomo di Dio, avesse sposato una straniera. In realtà Miriam non voleva la presenza di un'altra donna nella vita di Mosè, specialmente in considerazione del fatto che lei stessa non era sposata. Era indignata perché era costretta a relazionarsi con una donna straniera, mentre tantissime donne israelite sarebbero state molto più adatte per suo fratello. Mosè, grande capo degli israeliti, era fratello minore di Miriam e lei era preoccupata per lui. Era inquieta per il risultato del matrimonio e di come avrebbe potuto influire sul popolo. L'unione risale ad un periodo della storia nel quale si usava attribuire un notevole peso alle decisioni dei parenti in merito ad essa. Da questo, Miriam, una donna che non seppe controllare la propria autorità. Punto di vista: l'indignazione di Miriam sembrerebbe la giusta reazione spirituale di una donna matura. Ma la realtà era un'altra. Miriam era salita troppo in alto, aveva semplicemente superato i limiti stabiliti da Dio per lei e aveva stimato troppo se stessa. Si era considerata allo stesso livello di Mosè e nel suo orgoglio aveva fatto appello alla sua autorità. Era Mosè il capo di loro tre, si chiese. Non erano sia lei sia Aronne uguali a lui, fino a quel momento. In quell'istante Miriam non si preoccupava del benessere del popolo, ma agiva spinta dalla gelosia. Aronne, il più malleabile dei tre, non aveva potuto resistere alla sorella, più forte di carattere. Così si piegò al volere di lei. Insieme, Miriam ed Aronne cercarono di usurpare l'autorità di Mosè, non rendendosi conto di minacciare, in tal modo, l'unità dell'intero futuro di Israele. Oltre a ciò, invece di pensare al benessere di tutti, cercarono di distorcere la rivelazione di Dio, pensarono egoisticamente a se stessi. E ciò fu fatale. Dio ha creato l'uomo perché si dia agli altri, e quando una persona fa questa esperienza raggiunge la più grande felicità, diventa ricco in senso spirituale e apre i suoi orizzonti. Invece, quando egoisticamente desidera solo ricevere, quando vuole essere il centro dei propri pensieri, la sua vita rimane povera e limitata. Mosè rimase calmo. Egli non dimostrò alcun desiderio di difendere se stesso. Ma ci fu un altro, a preservare i diritti di Mosè. E ciò procurò un'esperienza spaventosa per Miriam e Aronne, perché l'Eterno aveva saputo quello che era successo sulla terra, e si mosse subito, per fermare la ribellione contro Mosè e per punire i colpevoli. Sconvolti e tremanti, Aronne e Miriam comparvero davanti a Dio e vennero a sapere come egli aveva giudicato la situazione. Udirono che Mosè non soltanto era il capo indiscutibile, ma aveva ricevuto la posizione più alta fra tutti i profeti. Era chiaro che Yahweh aveva scelto Mosè perché fosse il mediatore fra lui e il suo popolo. Egli rispettava Mosè così tanto che non gli parlava attraverso sogni oscuri e vaghi enigmi, ma si indirizzava a lui come ad un amico. Miriam e Aronne avevano attaccato un uomo altamente rispettato da Dio. Quando egli, nella sua divina giustizia e autorità, chiamò Aronne e Miriam a rendere conto della loro ribellione, i due non avevano scuse. In fin dei conti, essi non avevano danneggiato Mosè, ma se stessi. Mosè, il mediatore che Dio aveva scelto, era un tipo del Salvatore che doveva venire. Rigettare Mosè era come rigettare il Messia, e questo rendeva la situazione ancora più seria. Quando Dio li lasciò nella sua ira, Miriam era lebbrosa. Era affetta dalla peggiore delle malattie, un male che a poco consuma l'esistenza delle sue vittime, le degrada con una morte lenta. Dio l'aveva macchiata con la maledizione della lebbra. Una donna che per anni aveva camminato alla testa della folla cantando, che aveva incoraggiato le altre donne a innalzare gli inni di lode a Dio, era stata ridotta a niente. La sua voce, che una volta lodava Dio melodiosamente, ora doveva gridare «Impura! Impura!» quando qualcuno le si avvicinava. Le membra del suo corpo sarebbero gradualmente diventate sempre più flaccide e cadenti. Avrebbe trascorso la vita in solitudine, ridotta con la carne a brandelli. Miriam dovette riconoscere fino in fondo quanto grande fosse stato il suo peccato davanti a Dio. La vergogna del suo atto poteva essere paragonata al padre che sputa in faccia al figlio pubblicamente. Perciò lei doveva sottostare alla sua punizione apertamente, in modo che tutti potessero vedere come Dio puniva le persone che si ritenevano troppo superiori. Miriam, una donna brava, intelligente e attiva, non trovò parole per rispondere alla sua maledizione. Aaron ritrovò subito la sua calma, accettò il rimprovero di Dio e, riconoscendo l'autorità di Mosè, disse: «Non punirci per essere stati così sciocchi ed aver peccato». Nel peccato, Aaron si era identificato con Miriam. Poi non fu lui come sacerdote, ma Mosè stesso, a pregare Dio per la guarigione di Miriam, sua sorella. Mosè non fece capire se approvava il giudizio di Dio, né se rimproverava Miriam e Aaron. Egli semplicemente pregò Dio, e la sua preghiera ridusse la sentenza di Miriam da una vita a soli 7 giorni di sofferenza e di isolamento. L'atteggiamento di Miriam aveva arrecato danno non solo a se stessa, ma anche al suo popolo. Infatti, a causa sua il viaggio era stato sospeso. L'intera nazione fu trattenuta nel luogo dove si era fermata, finché Miriam fu di nuovo con loro. Quei 7 giorni trascorsi fuori dal campo fecero riflettere Miriam, le fecero capire che è Dio stesso a scegliere i suoi capi e che nel suo ordine sacro egli dà il comando a quelli che sono abbastanza umili per servire. Miriam era diventata una persona. Miriam, una donna che non seppe controllare la propria autorità. Migliore, era stata purificata. La Bibbia non ci parla di nessun'altra ribellione. Questa esperienza aveva forse distrutto la sua forza e la sua utilità, le aveva fatto perdere il dono della profezia? La Bibbia non ce lo dice, ma ci dice che lei morì prima dell'ingresso del popolo in terra promessa. Miriam era una donna che ricopriva una posizione eccezionale e svolgeva un compito che Dio stesso le aveva affidato. La storia di Miriam ci offre un magnifico esempio finché lei fu nella posizione di onorare Dio. Tuttavia, Miriam gradualmente si allontanò dal controllo di Dio e cominciò a voler prendere nelle proprie mani le redini della propria vita. Questo, indubbiamente, accadde così gradualmente che neppure lei si rese conto del cambiamento che stava avvenendo. Forse se avesse cercato onestamente nel suo cuore e non avesse oltrepassato i limiti della stima che aveva in se stessa, avrebbe potuto prevenire il giudizio di Dio. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia tratti da qualche parte e rivisti. Miriam, una donna che non seppe controllare la propria autorità,